Radio 24 Reportage. Legge 194, la corsa ad ostacoli delle donne per interrompere la gravidanza, di Roberta Pellegatta. La legge non prevede questo tipo di selezione. Credo che non ci siano mai stati problemi nel garantire qualsiasi prestazione, ivi compreso l'aborto. L'obiezione di coscienza non può essere un requisito, la rinuncia a questo diritto per partecipare a concorsi pubblici. Penso che chi ha adottato questi provvedimenti forse è stato mal consigliato. Dal ministro della salute Lorenzin ai medici cattolici, dal costituzionalista Mirabelli al presidente dell'Ordine dei Medici di Roma Lavra, tante le voci che si sono alzate contro l'iniziativa dell'ospedale San Camillo di Roma, che ha bandito un concorso per ovviare la carenza di medici non obiettori e garantire alle donne un diritto sancito dalla legge, quello di interrompere la gravidanza. Un'incandescente disputa, quella intorno all'applicazione della 194 in Italia, che si è riaccesa negli ultimi giorni dopo che è rimbalzata sui media l'odissea vissuta in Veneto nel 2015 da una signora padovana che per riuscire ad abortire ha dovuto bussare alla porta di 23 ospedali. Libera professionista, già madre di due figli, rimasta incinta nonostante l'uso della spirale, alla fine ha ottenuto il servizio solo attraverso l'intercessione della CGIL e dal primo ospedale da cui si era sentita rispondere no, quello di Padova. Non c'è posto, sono tutti obiettori, ci sono le vacanze di Natale, tra le giustificazioni che la signora si è sentita dare dai vari nosocomi, oltre che del padovano, delle province di Vicenza, Venezia, Verona, Rovigo. Un caso intorno al quale l'assessore veneto alla sanità Luca Coletto ha annunciato di aver avviato delle verifiche interne su cui indagano anche i carabinieri del NAS. Un caso che ha fatto correre ai ripari la USL Euganea, che comprende Padova, il cui direttore generale ha annunciato la creazione entro l'anno di un polo unificato per le interruzioni di gravidanza dove confluiranno gli 8 ginecologi su 41 non obiettori. La reazione a caldo a questo annuncio di chi ha seguito da vicino l'odissea della signora padovana e che l'ha denunciata, Paola Fungenzi, della segreteria di funzione pubblica CGIL di Padova. Su questa ipotesi, io non so se lui la intenda centro unico dove racchiude tutti i medici e il personale non obiettore per fare un unico centro per le interruzioni. Noi però pensiamo che questo significa ghettizzare questo tipo di prestazioni e di richieste. La legge non prevede questo. Da noi abbiamo già avanzato le nostre richieste, che sono quelle di costruire la rete nel territorio, quindi le strutture ospedaliere, però collegate in sinergia forte con i consultori che sono progressivamente in via di smantellamento. Quindi tutta quell'azione che viene prevista dalla legge di prevenzione, di garanzia e di tutela della maternità manca. Il caso della signora padovana, appunto, è, lo possiamo definire un caso eccezionale? Se posso dire, sì. Forse colpisce il numero di telefonate che la signora ha dovuto fare prima di trovare una risposta alla sua scelta dolorosa, ma in realtà noi è da che denunciamo, in particolare la CGIL l'ha denunciato anche la Corte Europea, che la 194 non viene applicata in maniera corretta, proprio per queste difficoltà di accedere ai luoghi preposti individuati dalla legge, sia nella fase iniziale, sia nella fase di intervento vero e proprio e soprattutto nella fase successiva. Una procedura come quella del San Camillo, che ha suscitato una vera e propria bufera, lei come la giudica? Io volevo anche inviare una nota di congratulazioni per il coraggio che hanno avuto questi dirigenti e la Regione Lazio. In realtà è proprio per applicare una legge dello Stato che hanno dovuto attivare con quella modalità e non hanno scalfito nessun diritto di chi vuole esercitare la propria obiezione. Le crociate sono già state fatte a suo tempo, ogni volta che si parla della 194 torniamo indietro. Io credo che la 194 sia un'ottima legge che ha trovato un punto di mediazione nella possibilità dell'obiezione di coscienza e ogni volta che parliamo di questa cosa apriamo tante discussioni che però io trovo anche stucchevoli nel momento in cui abbiamo la legge e noi chiediamo la sua applicazione, che vuol dire anche prevenzione. Non siamo per l'aborto, noi siamo per la vita, però va costruito un percorso, le condizioni sappiamo perfettamente quali sono perché non è mai semplice, la donna non lo fa mai con superficialità questa scelta, è una scelta che costa e che segna per la vita. Sempre, sempre. Intanto hanno preso servizio il 1 marzo scorso al San Camillo di Roma i due ginecologi, un uomo e una donna, che hanno vinto il concorso delle controversie, quello destinato all'assunzione di personale da assegnare al Day Hospital e Day Surgery per l'applicazione della legge 194. Una modalità di selezione che, secondo la CEI, snatura l'impianto della 194, che non aveva, affermano i vescovi, l'obiettivo di indurre l'aborto ma di prevenirlo. Concorda con la CEI, effetto notte, Franco Balzaretti, vicepresidente dell'Associazione Medici Cattolici. Innanzitutto io vorrei premettere che non in tutti gli ospedali vengono erogate tutte le possibili prestazioni, così come uno si può rivolgere ad un altro ospedale per qualsiasi altra patologia, lo può fare anche per l'interruzione di gravidanza, che oltretutto non è una patologia. Premesso questo, io vorrei dire che pensare ad un bando limitato a dei non obiettori è un qualche cosa che va contro non solo la legge, ma anche contro il buon senso e la dignità del medico, perché il medico deve poter partecipare a qualsiasi concorso. Si parla tanto di pari opportunità, ma qui in questo caso c'è una discriminazione veramente intollerabile. È convinto invece della bontà della scelta della sua azienda ospedaliera Fabrizio D'Alba, il direttore generale del San Camillo di Roma, così a 24 Mattino. Sul punto forse c'è stato, c'è un misunderstanding, nel senso che la novità di questa procedura, che si è completata da pochissimo, è stata quella di individuare da subito quale doveva essere la destinazione dei medici assunti. Nel senso, questo bando era finalizzato a acquisire professionalità da dedicare appunto alla nostra unità operativa della 194, che tra l'altro è l'unità operativa che prende il 30% dei volumi di Regione Lazio, quindi ha bisogno di una massa critica in termini di professionisti importanti. Quindi la novità è che fin da subito si dice dove devi andare a lavorare. In riferimento al fatto e alla tanta contestata eventuale clausola della presenza dell'obiezione o non obiezione come requisito di ammissione o non ammissione, questa clausola non esiste, perché non può esistere, perché non c'è una clausola che dice che è motivo di esclusione l'essere obiettore di coscienza. Su questo sono sicuro che il bando viene. Detto questo, alla CEI rispondo che sicuramente non è questo un'azione che tende a voler ulteriormente spingere verso politiche abortive. Tutt'altro, ci si dice che l'applicazione della 194 ha portato a una contrazione di più della metà delle interruzioni volontarie di gravidanza. In effetti, dati ministeriali dicono che gli aborti nel 2015 sono stati 87.639, il 10% in meno rispetto all'anno precedente e molto meno della metà dell'anno dei record, il 1983, quando le interruzioni di gravidanza furono quasi 235.000. Il tema è più aperto che mai e più che mai delicato e riguarda non solo Lazio e Veneto, ma tutto il territorio nazionale, dove in media 7 medici su 10 si dichiarano obiettori di coscienza, oltre 8 su 10 nelle regioni meridionali, con un picco di 9 su 10 nella regione Molise, dove è attivo un solo ginecologo per le interruzioni di gravidanza, come conferma Marinella Di Innocenzo, direttore regionale per la salute della regione Molise. Il problema è che noi intanto abbiamo solo 3 punti nascita. In questi punti nascita contiamo dal 2007 il blocco del turnover, per cui abbiamo pochissimi ginecologi. Tra questi ginecologi ce n'è uno di ruolo, tra quelli strutturati, che è completamente dedicato alle IVG. Noi per il momento non ne abbiamo bisogno, ma se dovessimo trovarci nelle condizioni in cui si è trovato il San Camillo, sicuramente valuteremmo questa opportunità, perché voglio dire, di contro che si fa? Non si assicura un diritto a un cittadino previsto per legge? Sta dalla parte del San Camillo anche Daniela Fantini, ginecologa e cofondatrice del primo consultorio privato laico aperto a Milano. La sentiamo effetto notte. Se i medici obiettori sono molti, esempio in Lazio 10 ospedali su 30 fanno le interruzioni di gravidanza, gli altri non le fanno, è necessario trovare una soluzione. La soluzione, che è quella che la ministra Lorenzin dice, è vero che si possono spostare i medici con comandi o con altre situazioni da altri ospedali, tanto sono pochi, e poi un medico che fa numero di modesto e finito il suo servizio se ne va, lascia scoperto per le urgenze, le complicanze, e lascia le donne in mano a medici che non sono d'accordo con le loro scelte. Questa è una cosa che bisogna trovare, deve essere risolta. Sempre effetto notte, il parere del decano dei ginecologi italiani, il professor Carlo Flamigni, padre della fecondazione assistita, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. Non esiste in Italia solo una obiezione di coscienza dei singoli, esiste un'obiezione di struttura, cioè sono le strutture che sono impedite nel svolgere la attività, tanto da costringere molte donne, che poi oltretutto si spaventano, quindi anticipano queste scelte per paura poi di dover portare avanti gravidanze non desiderate, e costringe a cercare soluzioni le più diverse. Quindi il timore dell'obiezione di struttura è diffuso. C'è bisogno in questo paese di evitare le guerre di religione. Noi stiamo rincorrendo cose che hanno a che fare con la salute delle donne. La legge 194 è una buona legge, le donne fanno un uso cauto dell'interruzione di gravidanza. C'è in questo paese, a causa di questa situazione di contrapposizione tra laici e cattolici, una perdita assoluta della compassione, cioè della capacità di capire la sofferenza degli altri. Non ne viene fatta una scelta superficiale. Le donne ci pensano su molto, insomma, lasciamo alle donne la possibilità di uscire da condizioni patologiche. Ricordiamoci che nella maggior parte dei casi le gravidanze non desiderate non sono frutto della stupidità, della superficialità delle ragazze, ma semmai dell'egoismo dei loro compagni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.